perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'indagine sul presidente della Campania si difende, dice: io sono parte lesa, dalle carte dei magistrati emergerebbe un ricatto di un giudice nei confronti dello stesso De Luca. Secondo i magistrati rubava i soldi dell'abbazia e quelli per le opere di carità, sequestrati 500.000 euro all'ex abate di Montecassino. Nuovo naufragio di migranti in Turchia, morti 7 bambini mentre la Slovenia mette il filo spinato al confine con la Croazia e oggi a Malta si apre il vertice internazionale. Per lo sciopero del personale di cabina che durerà fino a venerdì, Lufthansa annulla 1.000 voli, 100.000 i passeggeri lasciati a terra. Nuova asta di titoli di Stato con rendimenti sotto zero, collocati 6 miliardi di botta ad un anno, al meno 0,03% in lieve calo lo spread. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Abbiamo aggiunto e stiamo aggiungendo in queste ore, magari partiamo da questa trasmissione, poi arriverà anche qualcun altro, anche un nuovo contatto, quello di WhatsApp. Il numero che potete utilizzare è lo stesso degli SMS, il 349-238-6666, dunque se volete scriverci potete farlo, così come a effettogiorno@radio24.it. In apertura torniamo sull'indagine che riguarda il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, un'indagine su di lui e sul suo staff. I magistrati ipotizzano che ci sia stata una forma di corruzione, seppur non in denaro, per orientare la sentenza che ha consentito allo stesso De Luca di rimanere alla guida della regione nonostante la legge Severino. A seguire la conferenza stampa di De Luca di questa mattina, una conferenza stampa nella quale è stato piuttosto duro De Luca, c'era per noi Laura Viggiano. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Dopo la notizia arrivata ieri in tarda serata dell'indagine per corruzione della Procura di Roma, che vede coinvolte, come dicevi, 7 persone, tra cui il governatore della Campania De Luca, oggi ha convocato la stampa per rendere note alcune sue riflessioni. Non è stato possibile fargli delle domande. Il presidente della regione si è difeso e ribadisce la sua estraneità alla vicenda, sottolineando che il controllo di legalità è un bene, è una funzione essenziale in un paese democratico. Di qui l'invito alla magistratura che ascoltiamo. Io sostengo pienamente l'azione della magistratura. Invito la magistratura ad andare avanti con estremo rigore, possibilmente in tempi rapidi, perché, lo ripeto, le persone per bene sono interessate a che si accendano i riflettori su tutte le vicende della vita pubblica. Insomma, la giustizia faccia il suo corso, siamo impegnati nella rinascita del Sud e continueremo, ha detto il governatore, passando poi a un scenario un po' più duro. Facendo training autogeno ha provato a misurare le parole, ma poi ha stigmatizzato quelli che definisce gli effetti collaterali delle azioni giudiziarie e ha parlato di massacro mediatico delle persone e delle istituzioni, che sta diventando un segno di barbarie e oltraggio permanente allo Stato di diritto e alla Costituzione. Laura, prima di salutarti, gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda più puramente giudiziaria: dalle carte emergerebbe un vero e proprio ricatto nei confronti di De Luca, no? Sì, ci sono praticamente intercettazioni di colloqui anche tra diciamo l'ex capo della segreteria di De Luca e il marito della giudice Scognamiglio, che poi in realtà sarebbe praticamente il cuore della vicenda su cui i magistrati di Roma dovranno fare chiarezza. Insomma, si presume che De Luca sia stato anche indotto praticamente a promettere un incarico di rilievo nella sanità all'avvocato Manna, sostanzialmente in cambio, insomma, di una sentenza a suo favore che riguardava, come ha ricordato prima, la legge Severino, che praticamente poteva prevedere la sospensione per De Luca. Sostanzialmente era stata prospettata al governatore una sentenza negativa e dunque, insomma, di lì si dovrà chiarire se effettivamente c'è stata questa corruzione oppure no. Torneremo a parlare con te, Laura Viggiano, più avanti nella seconda parte della trasmissione, e andremo a sentire anche altri passaggi di questa conferenza stampa molto dura di Vincenzo De Luca. Nel frattempo la stessa giudice Scognamiglio smentisce, dice: non conosco De Luca né altri, con mio marito che sarebbe al centro di tutta questa vicenda, dice: vivevamo da separati in casa e non avevamo rapporti. Vedremo come andrà a finire. Per le reazioni politiche ci colleghiamo con Roma e con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, se De Luca è indagato per corruzioni e Renzi che va commissariato, attacca così su Facebook Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, Vincenzo De... E andremo evidentemente sulle reazioni politiche più avanti, abbiamo qualche problema di collegamento e nel frattempo dunque passiamo alla cronaca con la vicenda dell'ex abate di Montecassino, vediamo se abbiamo il servizio. Noi non siamo proprietari dei beni che possediamo, ne siamo soltanto gli amministratori. Il potere della Chiesa è un servizio per gli altri, mai per se stessi. Così scriveva Pietro Vittorelli quando era abate di Montecassino. Invece, secondo l'accusa, avrebbe rubato i soldi destinati ai poveri. Si sarebbe impossessato di ben 500.000 euro sequestrati dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura di Roma. Una cifra che avrebbe prelevato durante il suo mandato dai conti dell'abbazia. Secondo gli inquirenti, il denaro sottratto, che doveva essere destinato a finalità di culto e opere caritatevoli, è stato poi riciclato in varie tranche attraverso vorticosi passaggi da conti correnti vari gestiti dal fratello di lui. Vittorelli, romano, 53 anni, laureato in medicina, è diventato abate della storica abbazia benedettina di Montecassino nel 2007, rinunciandovi nel 2013 per motivi di salute. L'anno prima, infatti, venne colpito da una grave crisi cardiaca a cui seguì una lunga degenza e una terapia riabilitativa. Nel settembre scorso l'ex abate invece partecipò alla convention di Forza Italia Fiuggi, facendo profilare un proprio ingresso in politica. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Restiamo sulla cronaca. È morta la scorsa notte Chloe Govoni, la donna di 84 anni massacrata in casa da due ladri la mattina del 6 novembre a Renazzo di Cento, e siamo nel Ferrarese. Due interventi chirurgici all'ospedale per ridurre un'emorragia cerebrale non sono serviti a salvarle la vita. L'anziana era arrivata in condizioni critiche all'ospedale per un grave trauma cranico e la rottura dell'aorta dopo il pestaggio con calci e pugni da parte dei malviventi. Migliorano invece le condizioni della nuora della vittima, Maria Humeniuc, 53 anni, romena. Con lei in casa al momento dell'irruzione dei banditi rumeni, anche loro. Ci spostiamo a Milano, pur restando nelle aule di giustizia. Oggi la presentazione del bilancio sociale del Tribunale di Milano, con molte riflessioni che hanno riguardato la penetrazione dell''ndrangheta al nord, ma anche evidentemente l'Expo. Raffaella Calandra, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. L'allarme lo lancia prima di chiudere la sua relazione e terminare di fatto anche il suo impegno alla guida della Procura di Milano. Rischiamo la paralisi, la politica deve intervenire, denuncia il procuratore Edmondo Bruti Liberati, che andrà in pensione tra pochi giorni, snocciolando il numero delle gravi carenze di organico amministrativo. Nonostante questo, in un'aula magna gremita per la presentazione del bilancio di responsabilità sociale, anche con l'elenco delle inchieste fatte da Expo all'Andrangheta e delle innovazioni introdotte come delle spese ridotte, il Palazzo Milanese prova a scrollarsi di dosso mesi di polemiche e divisioni. Così si va al cuore dell'indagine, con il quadro ad esempio tracciato da Ilda Boccassini, che a proposito dell'antimafia torna a denunciare la colonizzazione al contrario da parte dei paesi della Calabria nell'Interland milanese. Parte centrale riservata ad Expo, alle indagini che l'hanno preceduto, che avrebbero potuto metterlo a rischio, ma che invece, anche se la giustizia non deve farsi carico della compatibilità, ha detto il procuratore Bruti, può fare in modo che si riduca la distanza con i tempi dell'economia. Questo è stato un tema difficile e delicato, su cui è tornato anche il guardasigilli Andrea Orlando, che innanzitutto ha voluto dare risposte sul rischio di paralisi con due numeri: le 4.000 unità di personale che si conta di inserire nel prossimo anno per dimezzare l'attuale scopertura. Ora il ministro sta visitando un ufficio di relazione pubblico qui al Palazzo di Giustizia e per ora la linea può tornare in studio. E grazie alla nostra Raffaella Calandra. Veniamo alle cronache dall'immigrazione. Il giorno nel quale la Slovenia mette il filo spinato al confine con la Croazia, si ha notizia di un altro naufragio, almeno 14 persone, tra cui 7 bambini, sono morte questa notte, erano a bordo di un barcone carico di profughi al largo della costa turca di Ajvacik, nella provincia di Kanakale, sul Mar Egeo, lo riferisce l'agenzia Anadolu, secondo cui altri 27 sono stati salvati dalla guardia costiera turca. Nel frattempo si apre oggi a Malta un vertice molto importante. Valentina Furlanetto, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. In effetti a Malta oggi pomeriggio a La Valletta ci sarà l'atteso summit sulle migrazioni che vedrà la partecipazione di una novantina di delegazioni. 22 sono i paesi europei rappresentati, con alcune significative defezioni, ad esempio la Polonia non ci sarà, ci sarà invece l'Italia rappresentata dal premier Renzi, ci saranno 35 paesi africani e anche l'Unione Africana. Bisognerà arrivare a un accordo, ma non sarà semplice, non solo per l'alto numero di partecipanti, immaginatevi 90 delegazioni che parlano di questo tema, ma anche perché le posizioni tra Unione Europea e Unione Africana sono molto diverse, le letture, gli obiettivi della questione migrazione sono diversi se non divergenti. L'Europa avrebbe due principali obiettivi: facilitare i rimpatri e poi discutere dei ricollocamenti al suo interno. Sulla questione rimpatri, fino ad oggi i rimpatri sono stati concordati da ogni singolo Stato europeo con i singoli Stati africani. Questo ha fatto sorgere ovviamente dei problemi, ad esempio in Francia, se viene negoziato un accordo con il Senegal, voi capite bene che ai senegalesi presenti irregolarmente sul territorio francese basta passare la frontiera e arrivare in Italia per aggirare l'ostacolo. Poi chiaramente l'Unione ha un peso specifico diverso nella negoziazione fra gli Stati, per questo è stato creato un fondo fiduciario europeo dell'emergenza per l'Africa, oggi dovrebbe trovare un via libera. Si discute dell'impegno finanziario di questo fondo, che dovrebbe essere di 1,8 miliardi di euro, una parte provenienti dal bilancio dell'Unione e una parte dagli Stati, ma questi ultimi ancora una volta hanno messo a disposizione appena 32 milioni, di cui 10 tra l'altro arrivano proprio da Roma. Tra l'altro l'Unione Africana ha definito un insulto l'offerta economica di 1,8 miliardi contro ad esempio i 3 miliardi offerti alla Turchia per la questione migrazione. Vediamo fino a che punto alzeranno quindi la posta, per così dire. C'è poi da vedere, fanno notare alcune associazioni fra cui Amnesty International, cosa i paesi africani e la loro classe dirigente farà effettivamente di questi finanziamenti. Poi c'è la questione ricollocamenti. Finora, lo ricordiamo, ci sono stati 116 persone ricollocate in Europa delle 160.000 di cui si attende un ricollocamento, e quindi un problema importante soprattutto per l'Italia. L'altro giorno il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha sottolineato che se non si faranno passi avanti su questo non andrà avanti neppure il progetto hotspot, per ora fermo a un centro funzionante, quello di Lampedusa. Quindi questi due pilastri, vedremo se le 92 delegazioni riusciranno a trovare una voce comune, il che è abbastanza difficile al momento. Vedremo dunque che cosa succederà. Vertice che si apre dunque alle 15.30 di oggi, e grazie alla nostra Valentina Furlanetto per restare sui temi europei e temi di dibattito forte. Si apre quello che è uno scontro diplomatico per certi versi annunciato tra l'Europa ed Israele. Bruxelles ha dato il via libera all'etichettatura dei prodotti dei territori occupati. A sollecitare il chiarimento sulla normativa erano stati in aprile 16 governi europei, Italia compresa. In nome dell'informazione e della massima trasparenza per i consumatori, cosa deve essere scritto alla voce origine sui prodotti alimentari provenienti dai territori occupati? La risposta della Commissione è appena arrivata, con la nota interpretativa alle linee guida per l'etichettatura dei prodotti. Bisognerà che ci sia scritto che arrivano da insediamenti israeliani e non semplicemente da Israele, perché l'Europa riconosce i confini di Israele al 1967. Del resto, si osserva a Bruxelles, in base all'accordo di associazione tra Israele e Unione Europea, i prodotti dei territori occupati in Cisgiordania e nel Golan sono esclusi dai benefici doganali. Ma Israele insorge. Nessuna etichettatura farà avanzare il processo di pace, dice il Ministero degli Esteri. Questa scelta potrebbe rafforzare il rifiuto dei palestinesi a tenere negoziati diretti e incoraggiare gli elementi radicali che sostengono il boicottaggio contro Israele e negano il suo diritto ad esistere. Secondo la Commissione, i prodotti interessati al provvedimento sono meno dell'1% del totale degli scambi tra Unione Europea e Israele, ovvero 154 milioni di euro nel 2014. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Siamo alla pagina economica, nuova asta con rendimenti sotto zero per i titoli di Stato italiani. Questa volta è toccato ai bot annuali. E pensare che 4 anni fa, a dicembre 2011, anno del pericolo spread, i rendimenti dei bot a un anno sfioravano il 6%, oggi per la prima volta scendono sotto lo zero. Il tesoro ha collocato 6 miliardi di buoni ordinari a un tasso negativo, meno 0,03%, 5 punti in meno rispetto all'asta di ottobre. In crescita anche la domanda a oltre 11 miliardi. Ciò significa che, nonostante il segno meno, i titoli di Stato continuano ad avere un certo appeal e gli investitori sono disposti a pagare per investire nei bond italiani. Già nelle scorse settimane erano scesi sotto la parità i bot a 6 mesi e i CTZ. Probabilmente tra gli acquirenti ci sono le banche, visto che lasciare i soldi presso la BCE offre un meno 0,20%. In più, Mario Draghi ha detto che a dicembre potrebbe ridurre ancora il tasso sui depositi, oltre a rafforzare il quantitative easing. Ed è stata proprio la BCE che, comprando asset, ha spinto i tassi ai minimi, così anche ai paesi più indebitati rifinanziarsi costa meno. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E andiamo dunque alle cronache, dalla manovra, dalla legge di stabilità che prosegue il suo percorso in commissione al Senato. Le novità di oggi con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, partiamo dai tempi parlamentari. Diciamo subito che l'arrivo in aula del provvedimento potrebbe slittare di qualche giorno, non più allora lunedì ma verso la fine della prossima settimana. Questo perché governo e maggioranza non vogliono per il momento arrivare a strappi con l'opposizione. Queste ultime chiedono maggiori chiarimenti in commissione bilancio, da qui l'obiettivo che si arrivi alla fine dell'iter con il mandato ai relatori. Rimane fermo l'impegno, ha chiarito la senatrice Chiavaroli di Area Popolare, di votare però il testo in aula il 20 novembre. Quanto agli emendamenti, restiamo ai centristi della maggioranza. Il credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno è una misura strategica capace di innescare un circolo virtuoso, ricorda il capogruppo AP in Senato Schifani. Il governo invece per ora si è limitato a presentare solo micro misure, dalle agevolazioni per gli Erasmus alla copertura assicurativa per carcerati e richiedenti asilo che fanno volontariato. Tutto ciò in attesa che il dibattito in Parlamento entri nel vivo e che soprattutto sia più chiara la dote destinata a finanziare le correzioni della manovra. Su Tasi ed IMU comunque sembra difficile che si arrivino a scontare le tasse sulla seconda casa data in comodato d'uso ai figli. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione ci andremo ad occupare di due vicende. Ancora una volta la vicenda di Vincenzo De Luca, il presidente della regione Campania. Ne parleremo tornando a sentire quali sono le reazioni politiche, perché poco fa è caduto il collegamento, e poi parlandone con Valeria Ciarambino, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campania. Ci occuperemo anche dell'inchiesta partita ieri che riguarda l'olio spacciato come olio extravergine, ma che a quanto pare non era tale. Vi ricordo anche, prima di andare a sentire il traffico, che abbiamo attivato da oggi anche il contatto su WhatsApp. Se volete scriverci, il numero è sempre quello, lo stesso degli SMS della radio, il 349-238-6666. Traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In apertura una notizia appena battuta dalle agenzie: la Procura di Messina ha aperto un'inchiesta sull'emergenza idrica che da 18 giorni interessa la città. Al momento non sono formulate né ipotesi di reato né indagati, è di fatto un'indagine conoscitiva, sono accertamenti preliminari. Dell'acqua a Messina torneremo a parlare nella seconda parte della trasmissione. In primo piano resta la vicenda di Vincenzo De Luca, il presidente campano, che dice: io sono parte lesa nell'indagine che mi riguarda. Dalle carte dei magistrati emergerebbe un ricatto di un giudice nei confronti dello stesso De Luca per orientare la sentenza che gli ha consentito di rimanere in sella. La stessa giudice smentisce quella che sarebbe coinvolta. Secondo i magistrati rubava i soldi dell'abbazia e quelli per le opere di carità. Sono stati sequestrati 500.000 euro all'ex abate di Montecassino. Nuovo naufragio di migranti in Turchia, morti 7 bambini, mentre la Slovenia mette il filo spinato al confine con la Croazia. Oggi a Malta si apre il vertice internazionale. Per lo sciopero del personale di cabina, che durerà fino a venerdì, Lufthansa annulla 1.000 voli, 100.000 i passeggeri lasciati a terra. E andiamo, prima di tornare alle vicende politiche, alle vicende che riguardano Vincenzo De Luca, e poi per parlare di olio, già qualcuno ci scrive sul questo nuovo contatto che abbiamo attivato su WhatsApp a proposito di questo, di fare anche i nomi delle aziende, posto che come aziende naturalmente sono solamente indagate, ci andiamo ad occupare di una giornata economica molto importante. Noi insomma tendiamo a vedere quello che succede da questa parte, in Occidente, delle grandi giornate di shopping, e invece oggi è una grandissima giornata di shopping per i cinesi. Si tratta dei cosiddetti Singles Day, la giornata dei singolo, e vengono spesi veramente un sacco di soldi. 8,6 miliardi di euro è la cifra record delle vendite online registrate oggi dal gigante cinese dell'e-commerce Alibaba in occasione del Singles Day, la giornata dei single, considerata uno dei principali eventi mondiali per lo shopping. Ideato nel 2009, il doppio 11, l'11 novembre appunto, registra ormai numeri da fenomeno globale. Alle 8:20 di questa mattina erano già state effettuate 200 milioni di transazioni sul sito. $1 miliardo è stato speso nei primi 8 minuti dopo la mezzanotte. Per promuovere la giornata di sconti eccezionali, il colosso del resto ha ingaggiato come testimonial Daniel Craig nei panni di 007 e Kevin Spacey in quelli di Frank Underwood. Good evening to the great people of China. I am the 45th president of the United States, Frank J. Underwood. And tonight I wanted to take a moment to say hello to all of you out there to wish you a happy Singles Day. La Cina ha un mercato di 668 milioni di persone connesse ad internet, numeri che fanno impallidire gli Stati Uniti, che nell'ultimo Cyber Monday, il Black Friday in versione online, il più grande evento di shopping online negli States, hanno speso solo $1,3 miliardi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo dunque alla vicenda De Luca. Eravamo rimasti in sospeso su quelle che sono le principali reazioni politiche. Le sentiamo dalla nostra Elisabetta Fiorito, poi andremo a parlare col capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campania. Elisabetta, eccoci, buongiorno di nuovo. Sì, buongiorno di nuovo. Se De Luca è indagato per corruzione e Renzi che va commissariato, attacca così su Facebook Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. Vincenzo De Luca, governatore della Campania, è stato scelto e sostenuto da Renzi. La vicenda è clamorosa, uno schifo. Più cauto il leader della Lega Matteo Salvini, spero che non sia vero nulla di ciò che ho letto sui giornali. Si tratta di cose gravi come la corruzione di un magistrato. Per il presidente della Camera Laura Boldrino, in molte occasioni la politica non sta dando il meglio di sé, i partiti devono fare pulizia al loro interno. Renato Brunetto di Forza Italia invece è garantista sempre e comunque. Da questo punto di vista vedo nella vicenda campana una grande confusione, dice Brunetta, e penso che questo sia l'elemento più triste. Per Arturo Scotto di Sinistra Italiana, l'indagine che ha coinvolto il presidente della Regione Campania De Luca e il suo entourage è inquietante, ma chi deve spiegare qualcosa è Matteo Renzi. Nessun commento però al momento dal PD, il partito di De Luca e ovviamente del premier Matteo Renzi. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Mentre siamo in attesa di parlare con Valeria Ciarambino del Movimento 5 Stelle, la quale al momento evidentemente non ci risponde, salutiamo Pietro Sandali, direttore generale di Unaprol, i produttori di olio. Buongiorno e benvenuto Sandali. Buongiorno a voi. Per parlare di quell'indagine che è partita ieri e come di consueto e come spesso accade per vicende alimentari dalla Procura di Torino e che coinvolge una serie di aziende che, lo dico agli ascoltatori, se volete facciamo i nomi, ma sono solamente indagate al momento, perché giusto anche il garantismo, Carapelli, Santa Sabina, Bertolli, Coricelli, Sasso, Prima Donna nella versione confezionata per Lidl e Antica Badia per Eurospin, così li abbiamo detti, gli ascoltatori sono contenti. Non si tratta di niente di pericoloso, perché si tratterebbe di olio che non è extravergine, spacciato come extravergine. Che ne pensate di questa inchiesta, Sandali? Ma che ne pensiamo? Innanzitutto è un'inchiesta e quindi vediamo come va a finire. Se la procura troverà confermate le proprie indagini, è chiaro che siamo di fronte a una frode, cioè viene venduta una cosa per un'altra. Detto questo, insomma, da tempo noi diciamo che il prodotto olio è uno dei più adulterati, modificati in Italia, e la necessità di essere chiari verso i consumatori con l'etichetta, anche se sappiamo benissimo che la signora Maria, io dico sempre mia madre, insomma, quando va ad acquistare difficilmente si va a leggere l'etichetta, ma guarda fondamentalmente il prezzo. Di fronte a questo dobbiamo anche dire che per quelli che sono i costi di produzione, il sistema dell'olio extravergine italiano, anche il prezzo per chi va a acquistare fa la differenza, e acquistare prodotti a 3 euro o 2,99 come spesso capita, molto spesso poi il rischio di trovare olio che non è esattamente... Quindi bisogna fare molta attenzione, Sandali, ci dice qual è il prezzo medio, fatto salvo il fatto che ci possono essere delle svendite, si fa sottocosto per attirare persone sul marchio, però quale dovrebbe essere il prezzo di un olio extravergine? Io oggi il prezzo mi servirebbe una sfera magica, però la cosa che le posso dire è che sulla piazza di Bari, che è la piazza che fa sempre il prezzo più basso per ovviamente ragioni di una forte offerta, oggi l'extravergine alla produzione è attorno ai 4,50 euro, quindi se questo è il prezzo della produzione è evidente che quell'olio non si può trovare a 3 euro sugli scaffali. La ringrazio, grazie a Pietro Sandali, direttore generale di Unaprol, per essere stato con noi, anche per averci aiutato, per aver aiutato a capire qualche consumatore che cosa deve fare. Valeria Ciarambino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campania, benvenuto e buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Immagino che la vostra richiesta sia per le dimissioni di Vincenzo De Luca. Certamente la nostra richiesta è per le dimissioni di Vincenzo De Luca. Le dimissioni le abbiamo già chieste da tempo. Avevamo chiesto addirittura che non si candidasse una persona che ha delle vicende giudiziarie gravissime che devono venire definite, che mettono in discussione la sua stessa permanenza alla guida della Regione Campania. Oggi siamo davanti all'ennesimo elemento di scandalo e di ombre gravissime che appunto pesano sul capo del presidente della mia regione. Detto ciò, Ciarambino, bisogna anche dire che è solamente un'indagine per il momento, e tra l'altro dalle carte dei magistrati, che a indagare sono i magistrati di Roma, emergerebbe un vero e proprio ricatto nei confronti di De Luca. Allora, che si tratti di un'indagine è verissimo, ma è un'indagine grave perché riguarda la permanenza stessa di De Luca alla guida della Regione Campania, riguarda la sospensiva della sospensione che non gli avrebbe permesso di governare. Quindi, anche davanti a un dubbio così forte, trattandosi solo di un'indagine, noi chiediamo che si dimetta, perché e se poi viene accertata una sua colpevolezza, che cosa succede? Tutti gli atti, tutte le nomine, tutti i provvedimenti di legge che lui fa, che validità hanno? Anzitutto. Dopodiché quello che è certo è che c'è già stata una bugia istituzionale. De Luca fino a ieri sera ha continuato a sostenere la tesi scellerata, la pezza a colori che si è stracciata subito, che il suo collaboratore, cioè il braccio destro che lavora con lui da 20 anni, 24 ore al giorno, che dirige la macchina amministrativa della regione, si fosse dimesso perché non riusciva a sostenere il carico di lavoro, quando poi c'erano state perquisizioni già alcune settimane fa. Quindi De Luca vuole dirci che non ne sapeva nulla, che non sapeva delle perquisizioni a carico del suo braccio destro che sta al suo fianco in Regione Campania. Per cui la situazione è scandalosa, è gravissima. Lui è omertoso, anche oggi ha fatto una conferenza stampa che era un discorso alla nazione, era un proclama di un sarcasmo che proprio non ci azzeccava in una situazione così grave. Quindi la smetta di fare il monarca assoluto della Regione Campania, si renda conto che viviamo in una democrazia e che lui deve rendere conto di quello che fa e di quello che dice. La ringrazio, grazie Valeria Ciarambino, consigliere e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campania. Questa è la versione del Movimento 5 Stelle. Noi adesso ci fermiamo, sentiamo che cosa succede in borsa e poi nella seconda parte della trasmissione sentiremo qualche passaggio in più dell'altra versione, quella di De Luca, quella appunto in conferenza stampa. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri titoli. La procura di Messina ha appena aperto un'inchiesta sull'emergenza idrica che riguarda la città e la colpisce da 18 giorni. Tra poco ne parleremo. Io sono parte lesa, dice Vincenzo De Luca, presidente campano, sull'indagine che lo riguarda. Il Movimento 5 Stelle, come avete sentito, chiede le dimissioni. Sentiremo tra poco di nuovo la voce di De Luca. Secondo i magistrati rubava i soldi dell'abbazia e quelli per le opere di carità. Sono stati sequestrati 500.000 euro all'ex abate di Montecassino. Un nuovo naufragio di migranti in Turchia, 7 bambini morti, mentre oggi a Malta si apre il vertice internazionale. E nuova asta ai titoli di Stato con rendimenti sotto zero, collocati 6 miliardi di botta ad un anno al meno 0,03%. E dunque, andiamo alla borsa. Effetto giorno. Un aggiornamento di pochi istanti fa a proposito della vicenda di Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania. Parla il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, dice: sono preoccupato, per quello che si capisce si tratta di una vicenda non esaltante, per usare un eufemismo, ma sarei cauto nel tirare delle conclusioni. E come si diceva, la notizia che è arrivata in corso di trasmissione è che la Procura di Messina ha aperto un'inchiesta sull'emergenza idrica che sta colpendo la città da ormai 18 giorni. E per fare un punto su questa emergenza torna con noi Luigi La Rosa, che è il direttore generale dell'AMAM, che è l'azienda meridionale Acque Messina. La Rosa, bentornato ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a tutti. In che situazione siamo? Stiamo lavorando per la realizzazione del bypass che dovrebbe aggirare la zona di frana, e quindi le imprese che sono intervenute sul posto sono due e stanno lavorando in team. Si prevede di completare i lavori per la fine della settimana e quindi di poter riattivare l'acquedotto. L'acquedotto, quello principale, diciamo, quello di Fiume Freddo, che era quello che consentiva di servire la città in maniera completa, in sostanza. Sì, l'acquedotto è quello del Fiume Freddo che porta Messina a 970 litri al secondo, secondo concessione. Quindi, insomma, una volta sistemata quella, a Messina dovrebbe tornare l'acqua con un certo livello di tranquillità, o quella zona, La Rosa, è ancora a rischio di frana e quindi di rottura di altre parti dell'acquedotto? La zona rimane a rischio frana, l'intervento è provvisorio, è un bypass provvisorio che dovrà essere comunque dovrà in ogni caso essere riattivato l'acquedotto principale dopo che la Protezione Civile avrà attivato le procedure di messa in sicurezza della collina che sovrasta l'acquedotto e che è franata. Vedremo che cosa succederà dunque nelle prossime ore. Grazie a Luigi La Rosa, direttore generale dell'AMA, l'azienda meridionale Acque Messina. Vi ricordiamo la notizia di oggi, tra l'altro, appunto, che la procura ha aperto un'inchiesta. Non c'è ancora ipotesi di reato, non ci sono indagati, ma appunto ha aperto un'inchiesta sull'emergenza idrica. A proposito di inchieste, torniamo dunque alle vicende di Vincenzo De Luca. Abbiamo sentito poco fa l'opinione del Movimento 5 Stelle, Valerio Ciarambino, che dice De Luca si deve dimettere. Torniamo tanto all'inchiesta quanto alla versione dello stesso De Luca. Abbiamo fatto sentire un piccolo passaggio della sua conferenza stampa, magari adesso vi facciamo sentire qualcosa di più e torniamo a collegarci con Laura Viggiano, che l'ha seguita. Laura, eccoci. Sì, infatti stamattina, come dicevi, De Luca si è difeso, ha detto di credere nella magistratura, ha parlato di massacro mediatico, ma soprattutto si è definito parte lesa. Sentiamo. Io sono parte lesa, io e l'istituzione che rappresento. Sono parte lesa in questa vicenda e combatteremo in maniera ferma nei confronti di chiunque oserà nei prossimi giorni gettare ombre sulla correttezza, sulla trasparenza dei nostri comportamenti. L'inchiesta avviata a Napoli vede coinvolti anche l'ex capo della segreteria del governatore Carmelo Masturzi, che si è dimesso dall'incarico nei giorni scorsi dopo le perquisizioni nel suo ufficio e nella sua abitazione. Il cuore dell'indagine ruota intorno alla sentenza di una giudice del Tribunale Civile di Napoli, Anna Scognamiglio, e per questo l'attività avviata a Napoli è stata trasferita alla Procura di Roma competente in materia di indagini che riguardano magistrati in servizio nel distretto partenopeo. Parliamo dell'estensore della sentenza che ha permesso a De Luca di governare Campania. Anche lei si dice estranea ai fatti e afferma di essere separata dal marito. Se qualcuno a mia insaputa ha speso il mio nome, non ne ho alcuna responsabilità. L'indagine riguarda anche suo marito, come dicevamo, l'avvocato Guglielmo Manna, un manager con esperienza maturata in uffici legali della sanità pubblica. Nei decreti di perquisizione gli inquirenti parlano di più azioni di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi. Antonio Emilio, giudice relatore nella fase di merito del ricorso intentato dallo stesso De Luca contro la sospensione dalla carica di Presidente della Regione, abusando della sua qualità e dei poteri decisionali in concorso con altri indagati, cioè il marito Guglielmo Manna e due intermediari, avrebbero minacciato De Luca tramite altre due persone, ovvero Vetrano e Mastuzzi, di una decisione a lui sfavorevole da parte del Tribunale, con una conseguente perdita della carica ricoperta. Questo, secondo l'accusa, avrebbe indotto il governatore a promettere a Manna, la nonna, a una importante carica dirigenziale nella sanità campana. Una condotta, sempre secondo l'accusa, reiterata poi anche nell'udienza che si è svolta l'11 settembre a Napoli, sulla legittimità del decreto che era stato emanato dalla Presidenza del Consiglio. Ecco Laura, De Luca in realtà ha replicato a tutto questo e anche alla conoscenza con Manna, no? Sì, infatti mi ha parlato in conferenza stampa, anzi ascoltiamo un pezzo della conferenza. Leggo dalle vostre cronache di un signore di nome Manna. Io potevo chiudere questa conferenza stampa in 30 secondi, e cioè io non sono a conoscenza di nulla, di nulla, di nulla. Leggo di questo Manna, vi devo dire sinceramente che non so chi sia, non so che faccia, non so dove viva, nessuno, in nessuna sede, né pubblica né privata, mi ha mai fatto cenno a questa persona che mi è del tutto sconosciuta. E grazie alla nostra Laura Vigiano anche per questi aggiornamenti. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi c'è il nostro Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti. Vi ricordo ancora una volta che oggi abbiamo attivato anche il contatto via WhatsApp, se volete scriverci il numero è lo stesso della radio, degli sms, il 349 238 6666. Ci sentiamo tra poco.